le 13. GR24, il sole 24 ore. Lega contraria alla riforma delle pensioni, questa sera le misure imposte dall'Europa al Consiglio dei Ministri. Berlusconi vede Tremonti e Napolitano e i legali chiedono il legittimo impedimento a Milano. Oltre 260 i morti nel terremoto in Turchia, Ankara rifiuta gli aiuti dall'estero. Rientrerà in Italia domani pomeriggio la salma di Marco Simoncelli. Una buona giornata dalla redazione e da Valentina Furlanetto. Il Consiglio dei Ministri è convocato per questa sera alle 18. All'ordine del giorno dovrebbero esserci i provvedimenti che l'Europa impone all'Italia per ridurre il debito pubblico. Questa mattina il portavoce del Commissario europeo agli affari economici ha ribadito che Bruxelles chiede all'Italia la rapida approvazione e l'applicazione di un pacchetto completo di riforme che comprende misure su crescita, occupazione e riforma della giustizia. Berlusconi già questa mattina ha visto Tremonti e il capo dello Stato. Sentiamo in diretta Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Silvio Berlusconi ci prova ad accontentare l'Europa, ma non è detto che ci riesca. Sarà il Quirinale accompagnato da Gianni Letta per spiegare al capo dello Stato Giorgio Napolitano la situazione dopo il vertice di Bruxelles e la richiesta dell'Europa soprattutto sulla spesa previdenziale. Il Consiglio dei Ministri straordinario è fissato alle 18 e lì si discuterà sull'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, ma la Lega già pone il veto. C'è un'ultima ora di Maroni che dice: vedremo in CDM, sentiremo le richieste e poi valuteremo. Comunque la nostra posizione è molto chiara, abbiamo già dato, i pensionati hanno già dato. E poi sentiamo il parere del capogruppo della Lega alla Camera, Marco Reguzzoni. Abbiamo fatto le nostre proposte alternative e poi di questa questione ne parlerà il Consiglio dei Ministri comunque. Ma ribadisco, la nostra posizione è diversa, noi siamo contro una qualsiasi riforma delle pensioni, siamo contro la patrimoniale, come propone la sinistra. Noi però abbiamo fatto le nostre proposte, ad esempio a costi molto limitati si può incidere in maniera positiva sui bilanci pubblici dando degli incentivi ai contratti part time per quelle donne che sono anche mamme, quindi hanno anche dei figli a carico. Intanto escono altre anticipazioni del libro di Bruno Vespa, il Premier si difende, i cattolici non mi hanno scomunicato a Todi, avanti con il DDL intercettazioni, è meglio di niente, nessun passo indietro da parte sua come chiede Pier Ferdinando Casini dell'UDC perché è privo di senso, mentre sulla crisi non bisogna illudersi, dice Berlusconi, nessun governo può agire da solo. Dall'opposizione Pierluigi Bersani, PD, fa sapere che con questo governo nessuna misura basterà mai, mentre Italo Bocchino di Futura Libertà dice che il partito di Fini è pronto a votare l'innalzamento dell'età pensionabile, basta che all'indomani il governo si dimetta. E per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Poco fa il portavoce del governo tedesco Seibert ha precisato che Francia e Germania considerano l'Italia un paese economicamente molto forte, un importante membro europeo e uno dei nostri partner più stretti. Sentiamo se e come la situazione incerta dell'Eurozona si registra sui mercati finanziari. In diretta Deborah Rosciani, buongiorno. Buongiorno, la giornata in borsa è stata piuttosto volatile. Questa indicazione di volatilità l'avevamo già avuta, come anticipo ieri, da alcuni analisti e gestori che abbiamo sentito proprio per capire quale avrebbe potuto essere l'apertura di oggi dei listini del vecchio continente dopo i vertici del fine settimana. Il peggior mercato, la peggior piazza in questo momento è proprio Milano, che ha una battuta d'arresto abbastanza pesante. Stamattina è arrivata a guadagnare quasi un punto, adesso perde l'1,47%, probabilmente anche nell'attesa delle misure per lo sviluppo che dovranno essere comunicate questa sera nel Consiglio dei Ministri delle 18. Le altre piazze europee, che pure stamattina erano partite piuttosto bene, adesso arretrano di mezzo punto, Parigi e Francoforte, Londra invece è sulla parità. Battuta d'arresto anche dell'euro sul dollaro a 1,3830, stamattina la moneta unica europea sul biglietto verde è arrivata a 1,3954. Sono in discesa di nuovo i titoli bancari, i titoli industriali, ma non tutti, perché in pregiro vola del 4,56%, segue Azimut più 0,8. Lo spread fra BTP e Bund è ritornato a riallargarsi, questa mattina a 391 punti in base. Sull'Europa peraltro stamattina pesano anche degli indicatori macroeconomici che sono stati diffusi e che sanciscono una battuta d'arresto per esempio per l'economia francese, che in ottobre è entrata in recessione. Stiamo parlando dell'indice l'indice PMI composito della produzione nella zona euro, che a settembre è sceso a 47,2 punti. E per il momento, Valentina, è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Di fronte alla crisi internazionale, questa mattina arriva un netto richiamo dalla Santa Sede. Un'autorità finanziaria mondiale e uno sviluppo globale sostenibile secondo principi di equità e giustizia. Il Vaticano, attraverso un documento pubblicato dal Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace, presenta le sue proposte concrete in chiave anticrisi. Occorre un'autorità mondiale, si legge, che regoli il flusso e il sistema degli scambi monetari, superi il sistema di Bretton Woods e coinvolga paesi emergenti. Un'autorità che, secondo il Vaticano, potrebbe ricalcare a livello mondiale le funzioni svolte in Europa dalla BCE. Nel documento intitolato proprio per una riforma del sistema finanziario e monetario internazionale nella prospettiva di un'autorità pubblica a competenza universale, la Chiesa chiede poi che si torni al primato della politica sull'economia e sulla finanza e denuncia il rischio di una generazione di tecnocrati che ignora il bene comune. È necessario invece promuovere uno sviluppo globale sostenibile attraverso, per esempio, la tassazione delle rendite finanziarie con aliquote eque ma modulate con oneri proporzionati alla complessità delle operazioni, soprattutto di quelle che si effettuano nel mercato secondario. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dicevamo che Berlusconi ha visto in mattinata Tremonti ed è poi salito al Quirinale. Per questo motivo il Presidente del Consiglio non era presente oggi al processo Mills e i suoi legali hanno chiesto di far valere il legittimo impedimento. Per altri particolari, in diretta Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno. L'agenda anticrisi del Presidente del Consiglio fa saltare una delle udienze clou qui in Tribunale a Milano per il processo Mills. La Corte infatti ha accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata dalla difesa di Berlusconi con una lettera di Palazzo Chigi, documentazione che i giudici considerano esaustiva e rilevante e quindi rinviano al 28 novembre l'audizione di David Mills, l'avvocato inglese ex coimputato del Premier, condannato per corruzione in atti giudiziari e poi assolto dalla Cassazione per prescrizione. La sagoma di Mills era già collegata da Londra sugli schermi dell'aula quando è saltato tutto, non con qualche disappunto dei giudici anglosassoni su quanto sia expensive, hanno detto, ricombinare le date. A questo punto è fissato al 5 dicembre anche l'ipotetico interrogatorio dello stesso Berlusconi, che però in base alle dichiarazioni dello stesso Mills deciderà se rendere dichiarazioni spontanee o farsi interrogare, hanno anticipato poco fa gli stessi avvocati, stigmatizzando ancora che non si dovrebbe celebrare affatto un processo già prescritto. Col nuovo calendario la sentenza dovrebbe arrivare a fine gennaio, quindi prima che il conto alla rovescia della prescrizione, aggiornato ora a marzo, faccia calare definitivamente il sipario sul processo. Ma la corsa contro il tempo è anche con l'eventuale approvazione della legge sulla prescrizione breve. E per ora dal Tribunale tutto. Grazie Raffaella Calandra. E ora la cronaca. Una studentessa di 21 anni è stata violentata poco prima delle 7 nel sottopasso che porta alla stazione ferroviaria di Treviso. La donna è stata bloccata da un uomo, pare un sudamericano, armato di coltello e la violenza si sarebbe consumata alla presenza di una testimone. Secondo la polizia, questa e altre testimonianze raccolte dovrebbero portare ora all'arresto dell'uomo. Circa 150 immigrati clandestini provenienti dall'Egitto sono stati bloccati su un peschereccio al largo di Bari al termine di un inseguimento durato circa 4 ore. Secondo la Guardia di Finanza, tra loro si nasconderebbero una decina di scafisti. Dovrebbe essere confermato tra poco il fermo del 23enne Leonardo Vecchiolla per i disordini avvenuti a Roma 9 giorni fa. Hai visto cosa abbiamo fatto a Roma? Abbiamo incendiato una camionetta. Te la dedico. Questa la frase intercettata nella telefonata ad un amico, diventata perno del fermo del 23enne Leonardo Vecchiolla, il 14esimo ragazzo fermato dopo gli scontri di sabato 15 ottobre a Roma. Prevista per oggi la convalida del fermo al Tribunale di Chieti. Scettico il legale del ragazzo Sergio Acone. Dalle intercettazioni non traspare che appartenga a qualche associazione e in verità non traspare neanche un diretto coinvolgimento nell'assalto al blindato. Nel fascicolo non c'è neanche una fotografia, quindi questo è sintomatico del fatto che evidentemente le indagini sono alquanto lacunose perché proprio dalla telefonata traspare che lui non ha partecipato al salto al blindato. Intanto la Digos e i carabinieri del ROS continuano ad analizzare foto e filmati per identificare gli altri assalitori del blindato. Francesco Marinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 19 persone sono state arrestate, 120 denunciate dalla squadra mobile di Pistoia, che ha scoperto un'organizzazione specializzata in false regolarizzazioni di stranieri. Nella maggior parte dei casi si trattava di cinesi che vivono a Prato e che svolgono per lo più lavori di colf e badanti. Tra le persone coinvolte anche due commercialisti. Scioperi iniziata stanotte, la protesta di 5 giorni degli autotrasportatori. Avevano minacciato di bloccare gli accessi dei principali porti italiani e gli aderenti allo sciopero nazionale di 5 giorni indetto dagli autotrasportatori della sigla Trasporto Unito per ora stanno creando disagi a Genova. Qui alcuni tir hanno prima ostruito alcuni varchi, poi rallentato la circolazione bloccando l'operatività dello scalo. Trasporto Unito, che rappresenta circa 5.800 imprese terziste, chiede al governo di garantire tempi di pagamento certi, di modificare il sistema dei costi minimi e degli accordi di settore, nonché di garantire più vigilanza sui contratti di trasporto e di intermediazione. Il segretario generale di Trasporto Unito, Maurizio Longo. So che sono partiti gli autotrasportatori, hanno messo di traverso i tir, io ho chiesto di toglierli, di metterli ai bordi e quindi di consentire la circolazione. Ci sono attività di sensibilizzazione a Genova, La Spezia, a Savona, Brindisi, iniziano l'attività di sensibilizzazione a Bari, a Gioia Tauro, a Villa San Giovanni, vi sono altri porti in cui si sta dialogando in modo molto corretto. Regolari invece le attività nei porti di La Spezia, Savona, Brindisi e nell'interporto di Padova. A Genova con la protesta è stata ricordata anche la morte di Marco Simoncelli. Tra gli striscioni e le bandiere del sindacato ce n'è uno che ricorda il pilota delle due ruote morto ieri in Malesia. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte abbiamo parlato della Lega contraria alle riforme delle pensioni, questa sera le misure imposte dall'Europa al Consiglio dei Ministri e poi ancora Berlusconi che ha visto Tremonti e Napolitano, i legali hanno chiesto il legittimo impedimento a Milano. Oltre 260 i morti nel terremoto in Turchia, Ankara ha rifiutato gli aiuti dall'estero, rientrerà in Italia intanto domani pomeriggio la salma di Marco Simoncelli. Giornata di spoglio in Tunisia, dove si è votato ieri per eleggere l'assemblea costituente a 9 mesi dalla destituzione del presidente Ben Ali. I tunisini hanno votato con un'affluenza superiore al 90% e i risultati definitivi dovrebbero arrivare domani. Da Tunisi, Alberto Negri. In Tunisia il partito islamico Ennahda è in testa alle prime elezioni libere dopo la rivoluzione dei gelsomini del 14 gennaio che ha cacciato Ben Ali. Si tratta di indicazioni preliminari perché i risultati ufficiali arriveranno soltanto domani, ma già si intuisce che la vittoria degli islamici guidati dallo sceicco Rashid Ghannouchi potrebbe avere dimensioni rilevanti. Dopo di loro si registrano a quanto pare affermazioni del congresso repubblicano di Monsef Marzouki e della coalizione laica di Ettakatol. Quest'amane al quartier generale degli islamici un palazzo in vetro e cemento di 8 piani nella city di Tunisi tirava un'atmosfera ottimista di vittoria. Il partito Ennahda è riuscito a raccogliere consensi non solo tra le fasce di popolazione più sfavorite ma anche al centro, nella borghicola e media borghesia. Un risultato conseguito impostando un messaggio basato sull'Islam moderato e le riforme economiche. L'atmosfera a Tunisi è comunque tranquilla. Il giorno dopo il voto, caratterizzato da un'altissima affluenza, c'è la sensazione che il paese della rivoluzione dei gelsomini sia ancora una volta il battistrada della primavera araba. Poiché la Tunisia è stata la scintilla che ha fatto esplodere la primavera araba, del risultato di queste elezioni è molto preoccupata Valentina Colombo, docente di geopolitica dell'Islam e membro del Comitato per l'Islam Italiano presso il Ministero dell'Interno. L'intervista è di Laura Bettini. Ci troviamo innanzi a persone molto scaltre dal doppio linguaggio che in campagna elettorale facevano credere ad un Islam moderato, non dimentichiamoci la visita di Erdogan in Tunisia, ma che poi di fatto se noi leggiamo per esempio i testi, i saggi di Rashid al-Ghannouchi, che è il loro principale esponente, l'obiettivo ultimo, come per tutti gli esponenti dei Fratelli Musulmani, è quello dello Stato Islamico. In Libia avremo i Fratelli Musulmani che fanno già parte del governo transitorio. Si è appena avuta la notizia che il futuro, diciamo, governo avrà come fondamento la Sharia, nulla di nuovo perché era già una situazione in vigore all'epoca di Gheddafi, però in Egitto, se in Tunisia i fratelli musulmani hanno ottenuto probabilmente più del 50% dei voti, in Egitto i fratelli musulmani potranno arrivare anche all'80% se non di più. E a proposito di elezioni, sono già definitivi i risultati delle presidenziali in Argentina che confermano Cristina Kirchner. Gli Stati Uniti hanno ritirato il loro ambasciatore in Siria, Robert Ford, per preoccupazioni sulla sua sicurezza. Washington non ha fornito ulteriori particolari. Secondo un quotidiano sudanese, Saif al-Islam, figlio del colonnello Gheddafi, si trova nel Darfur sudanese sotto la protezione di Kalim Ibrahim, leader del movimento Giustizia e Uguaglianza. Saif avrebbe raggiunto il Darfur fuggendo il 27 di agosto con un convoglio di 6 veicoli corazzati da Sirte, passando per una zona alla frontiera tra Libia e Chad. Il Darfur è diventato, secondo il quotidiano, rifugio per molti ricercati dal CNT. Ed ora il terremoto in Turchia. Sono ora 264 i morti accertati dopo la forte scossa che ha colpito ieri il paese. Nella provincia di Van, al confine con l'Iraq, dove il terremoto ha portato morte e devastazione, sono decine gli edifici crollati e centinaia i dispersi. Perciò è forte il timore che il numero delle vittime continui a salire. Decine di camion dell'esercito turco sono in viaggio sulla strada che porta a Erciş, uno dei due centri della Turchia orientale più colpiti. Alla periferia della città, in un campo di calcio, la Croce Rossa turca allestisce tende e distribuisce viveri. Più di 1.300 soccorritori, 145 ambulanze, 6 battaglioni dell'esercito, 6 elicotteri e un aereo cargo sono stati inviati nell'area. Si continua a scavare senza sosta da ieri sera. Il premier Erdogan e vari ministri ieri si sono recati in visita a Van per valutare i danni. Molti paesi, tra cui Israele, nonostante la crisi diplomatica in corso, Stati Uniti ed Italia, hanno offerto il loro aiuto. Ma per ora la Turchia ha deciso di fare da sola. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la nostra rubrica sull'evasione. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Altro che sottoscala con lavoratori clandestini, l'evasione fiscale è anche un'industria, un vero business portato avanti da società che si muovono con efficienza svizzera. Incredibile ma vero, nel paese dei furboni, per pagare meno tasse o non pagarle affatto, si stanno moltiplicando le società che aiutano ad evadere. Nel 2008 in Emilia-Romagna sono state scoperte 1200 aziende tessili cinesi, le quali anche in questo caso frodavano il fisco in maniera professionale. Scordatevi sottoscala bui, i lavoratori cinesi pagati in nero. Qui si acquistavano in base a un preciso tariffario fatture false per abbattere i redditi. 10 società italiane e cinesi erano nate proprio allo scopo di fornire questi servizi. Un sistema che ha fruttato alle 1200 aziende tessili l'abbattimento dei redditi per 250 milioni di euro e un'evasione IVA per altri 45 milioni. Nell'ottobre 2009, infine, sono stati arrestati un accendiere svizzero, 3 collaboratori e un funzionario di banca che fornivano un servizio evasione chiavi in mano a ben 280 imprese italiane che sono così riuscite a sottrarre all'erario 150 milioni di euro. Torniamo alla politica, come si stanno modificando gli equilibri elettorali. Maria Luisa Pezzali lo ha chiesto Roberto Dalimonte, professore di scienza della politica all'Università LUISS. In questo momento c'è un grande disorientamento da parte soprattutto degli elettori moderati, quindi siamo in una situazione di fluidità e di instabilità. E lo vediamo quando nei sondaggi tra il 40 e il 50% degli intervistati non risponde alla domanda sulle intenzioni di voto. E quindi questo rende poi le percentuali che vediamo sui giornali in televisione molto aleatorie. Secondo lei c'è comunque un'emorragia di voti dal PDL? Sì, nel senso che per il momento c'è un'emorragia di voti verso però l'astensione, non tanto verso i partiti di centro-sinistra. Gli elettori moderati che hanno votato Berlusconi nelle elezioni scorse, anche nelle europee, nelle regionali e soprattutto nelle politiche del 2008, oggi sono delusi e quindi non rispondono alla domanda sul voto, sono lì tra coloro che sono sospesi. Se questi elettori che in questo momento non rispondono alla domanda sul voto non andranno a votare alle prossime elezioni, e allora certamente incideranno sull'esito complessivo e quindi è possibile che le opposizioni possano vincere, ma se questi elettori da qui alle prossime elezioni politiche torneranno a votare, cioè saranno rimobilitati da Berlusconi e da chi per lui, E allora le percentuali che vediamo sui giornali oggi non sono percentuali veritiere. E ancora non c'è un'offerta chiara, devo dire, né da parte del centrodestra, ma soprattutto da parte dell'opposizione, perché questi voti che noi vediamo, questi sondaggi, sono ancora molto aleatori, perché la gente non sa ancora come si presenteranno partiti e schieramenti alle prossime elezioni. Finché non sapremo, no, come si presenta il PD, quale sarà la coalizione, quali saranno i programmi, quali saranno i leader, non si possono fare previsioni. E ora parliamo di un lutto, la morte del pilota Marco Simoncelli. L'avete sentito ieri, anche oggi questa morte continua a far discutere non solo il mondo dello sport. Ne parliamo con Dario Ceccarelli. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno Valentina. Sì, fa discutere perché è difficile accettare che un ragazzo di 24 anni, così vitale e così pieno di progetti e che era il simbolo della velocità, si sia improvvisamente fermato. Lo si vede su internet, nei messaggi che giovani e meno giovani fanno arrivare dovunque. Poi c'era questa generosità, Marco è morto anche perché non ha mollato l'acceleratore. E così è rientrato all'interno della pista al posto che all'esterno. Ed è stato travolto da Edwards e da Valentino Rossi. È un'immagine tremenda, l'amico rivale o rivale amico che lo travolge. Difficile è che Valentino si riprenda da uno shock così violento, nel senso che possa tornare a correre normalmente. Dario, qualcuno lancia già delle accuse come l'aderenza delle gomme, la centralina elettronica, cosa si può dire su questo? Ma credo che con 300 kg che ti finiscono in testa non c'è sicurezza che tenga. Purtroppo, forse è meglio così, ci si crede immortali. Invece in certi sport come l'automobilismo, come il motociclismo, il ciclismo, la morte non è fuori dal campo di gioco. Molte cose sono state fatte, in auto, in moto si muore molto meno rispetto al passato, però è l'insicurezza, l'incertezza è parte integrante di questo sport. Andare oltre i propri limiti è proprio nel DNA di questi piloti. In quel confine tra il certo e l'incerto c'è la possibilità della vittoria, lo spazio per il sorpasso, e quindi chiedere una completa sicurezza è impossibile, è un'utopia. Peccato però, perché quando va via un ragazzo così uno resta con un amaro in gola tremendo. Grazie Dario. E a proposito di Valentino Rossi, è di poco fa la notizia rilanciata da un amico su Twitter secondo cui Valentino non sta pensando assolutamente di smettere. Mi dispiace, ha scritto, che girino queste notizie false in momenti così. Ed è tutto per questo GR, che è stato curato da Enrico Pagliarini, Fabio Cantadori in regia, Valentina Furlanetto al microfono. La prossima edizione alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.